GR Europa. Buona giornata da Cristina Carpinelli. Sono 370.000 gli sfollati e i profughi provocati dal conflitto nel nord del Mali, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane con flussi massicci. È l'allarme lanciato dalla commissaria europea agli aiuti umanitari Kristalina Georgieva di ritorno dalla missione in Burkina Faso. L'ha intervistata Gigi Donelli. Abbiamo deciso di aumentare con altri 20 milioni di euro il nostro sostegno alle popolazioni del Mali per affrontare la crisi umanitaria che il paese è costretto a subire. Questa cifra si somma agli altri 20 milioni che l'Unione Europea ha stanziato a fine dicembre e sono soldi che servono ad assicurare gli strumenti sanitari per le popolazioni più direttamente coinvolte, ma anche per assicurare cibo, acqua e alloggio ai rifugiati che sono purtroppo destinati ad aumentare. Per adesso la cosa che più ci preoccupa non è tanto l'aumento dei bisogni della popolazione quanto la crescente difficoltà che lo sforzo umanitario incontra a raggiungerle. Sono le condizioni di sicurezza che rendono oggi molto difficile l'accesso alle zone del nord del paese, che gli operatori umanitari sono comunque riusciti a servire fino a poche settimane fa. Ora la situazione è in mano ai militari. I militari devono assicurare i permessi agli operatori umanitari, ma è chiaro che questo non rappresenta la priorità delle autorità combattenti. I permessi richiedono tempi lunghi e l'accesso alle zone più isolate di questo grande paese si fa via via più complessa. Siamo anche preoccupati che in un paese come il Mali, che ha una complessità etnica molto specifica, sia assicurato il rispetto delle diverse comunità. È indispensabile che l'esercito maliano sia addestrato al rispetto del più alto standard di protezione umanitaria delle popolazioni e sono lieta di poter dire che la missione di addestramento dell'UE sta prendendo questo compito molto seriamente. And I'm very pleased to say that the EU training mission is taking this task very seriously. È preoccupante l'esistenza di partiti europei che nutrono odio razziale, così la commissaria europea Cecilia Malmström risponde a una domanda sulle parole di Berlusconi sul fascismo. La Malmström ha aggiunto che è necessario che tutti i leader politici prendano posizione contro. Ultimatum di Bruxelles a Grecia, Italia, Portogallo e Bulgaria per non avere ancora adottato misure nazionali di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici sia nuovi che già esistenti. Se i quattro stati non risponderanno ai loro obblighi entro due mesi, rischiano di ritrovarsi di fronte alla Corte di Giustizia europea. Questa era l'ultima notizia per questo GR. Vi ricordiamo che potete scriverci inviandoci le vostre domande che noi gireremo ai protagonisti della politica europea all'indirizzo gr.europa@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.